9. Ascolta e controlla. 1. Abbi la pazienza di aspettare. Pure voi abbiate la pazienza di aspettare. 2. Fai quello che vuoi, ma voi non fate quello che volete. 3. Abbi l'intelligenza di stare zitto. Anche voi abbiate l'intelligenza di stare zitti. 4. Fai subito i compiti. Invece voi fate i compiti domani. 5. Abbi il coraggio di dire la verità. Anche voi abbiate il coraggio di dire la verità. 6. Fai una passeggiata in collina. Voi invece fate un giro in campagna. 7. Abbi la cortesia di parlare sottovoce. Anche voi abbiate la cortesia di parlare sottovoce. 8. Fai attenzione quando guidi. Pure voi fate attenzione quando guidate. 9. Abbi la gentilezza di farmi entrare. Pure voi abbiate la gentilezza di farci entrare. 10. Fai merenda più tardi. Al contrario, voi fate merenda subito.